caso. Un mucchio di input e output, una quantità di informazioni e un mucchio di elementi da considerare. Ho una quantità di elementi da tenere presente. Raccolgo i frutti adesso che sono marci, ma fa lo stesso sbrigarsi, basta capirsi. Ritorno sopra un'altra volta, fatta apposta per lo stono. Aggiungo sta sintassi da scaricarsi al momento buono. Questione di come senti il suono, questione di come prendi il microfono. Aggiungo il mio monitor a tutto il pulpito, sperando che sto attimo si dilati fino all'ultimo. Consumo metriche a quattro ruote motrici, piazzo le mandorle sopra le cicatrici, nel volto i crateri di quello che dici, nei suoni in mezzo per trarne i benefici. Capaci non di stragi, ma di messaggi sopra il miraggi. Cerco i passaggi senza gli inganni dei sondaggi. Viaggi ritmica, assaggi in musica, professioni MC sta all'isola. Come caccio l'H ad alta quota, per il rap sono a rota come il pibe per la mota. Nota la strana assonanza di ultima nota, nuota in una piscina con me di sopra. Vota a destra, sbatti di davanti, io capello rastra mentre tu frequenti nazi. Anzi facciamo la situazione che ti aspetti, facciamo che rimani fuori anche se bussi. Facciamo che sfasciamo tutto ciò che tocchiamo, altro che remida, io sono uno schiavo. Malato colpe animo, ipocardiaco, contamino le masse, ascolta l'ultimo mio singolo. Ologramma del coach con due dita di scotch, poco prima del match. Questo è il rap, io lo scratch che ho cacciato dal RG. Questa sostanza è sicola come un numero G. Via sud di Tunisi, Simun, noi augi. Contamino con l'amido dell'audio sotto i battiti. Tutti fatti miei patti, tutti fatti coi piatti. Tutto pane fatto con i fatti. Departi dai due partiti, qui zero canditi. Sono dei coach, solo uccelli per diabetici. Saranno cazzi ameri! Portiamo dentro il rap come un virus, portatori sani a pezzetti dentro un ciro. La mia isola, bruciamo la sostanza con respiro, contagiamo anime ad ogni nostro tiro. Portiamo dentro il rap come un virus, portatori sani a pezzetti dentro un ciro. La mia isola, bruciamo la sostanza con respiro, contagiamo anime ad ogni nostro tiro. Portiamo dentro il rap come un virus, portatori sani a pezzetti dentro un ciro. La mia isola, bruciamo la sostanza con respiro, contagiamo anime ad ogni nostro tiro.